stella ballata, abbiamo lo spazzatura, il sogno è troppo breve, comprate poi buttate, i sentimenti vari, amore d'avventura, di ore già scordate, di giorni già passati, con i giornali vecchi se ne vanno le parole, che solenni e gravi, raccontano la storia, o forse sono storie, colpi di pistole, che attraversano cervello, non resta. Sotto un cielo di paura, non so se c'è un futuro, ma volando.